giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Elisabetta Molaro è avvenuto al culmine di una lite. Ha confessato il marito Paolo Castellani, che ha coltellato a morte la moglie mentre le due figlie dormivano nella loro camera. La vittima, 40 anni prima di essere uccisa, aveva trascorso la serata con alcune colleghe di lavoro. Una di queste conferma: si voleva separare. Gravissimo all'ospedale di Venezia l'uomo di 34 anni di Chios, rimasto ferito nel tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti sull'A4 ieri pomeriggio tra San Stino e Portogruaro. Occupazione in ripresa del 3,5% nel primo trimestre dell'anno è l'effetto del venire meno delle restrizioni anti-Covid, i dati diffusi dall'IRES. La cybersicurezza è una delle sfide più importanti del terzo millennio, il tema al centro della conferenza internazionale sulle reti a Trieste. 1000 esperti da tutto il mondo. Agricoltura regionale minacciata dagli aumenti di fertilizzanti e mangimi provenienti da Russia e Ucraina, ma a mettere in crisi le aziende e soprattutto il caro energia. Mercati e occupazione del suolo pubblico. Il comune di Pordenone è tra i primi ad adottare la direttiva europea sulla concorrenza, ma gli ambulanti sono sul piede di guerra. A Grado 12 dermatologi impegnati in spiaggia in una campagna di sensibilizzazione sui danni che può provocare l'eccessiva esposizione al sole senza protezione. Oggi è il Bloomsday, il giorno in cui anche Trieste celebra l'Ulisse di Joyce, pietra miliare della letteratura del Novecento, pubblicata esattamente 100 anni fa e scritta in parte proprio a Trieste. Le 7:19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Nada Cioc. Vediamo subito la situazione del meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature. A Trieste 20 gradi, il mare è calmo con una temperatura di 21 gradi e mezzo, Pordenone 19, Gorizia 17, Udine 16 e mezzo, Tolmezzo 17 e mezzo, Forni di Sopra 13, Tarvisio e Sappada 12, Piancavallo 11, Monte Lussari 13 e mezzo, Monte Zoncolan 12 e mezzo, Lignano 23, Grado 21 con una temperatura del mare di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA: su pianura e costa cielo in genere sereno, poco nuvoloso, con caldo afoso nel pomeriggio in pianura, mentre sulla costa soffieranno venti di brezza. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile dal pomeriggio, con possibili locali rovesci isolati temporali che in seguito potrebbero interessare anche qualche zona di pianura. Dopo il tramonto, tempo più stabile. Ha confessato di avere ucciso la moglie con un coltello, lo stesso trovato dai carabinieri nel fiume Stella. Ora si trova nel carcere di Belluno in attesa dell'udienza di convalida del fermo. Ha confessato nel corso dell'interrogatorio condotto dal pubblico ministero alla presenza dell'avvocato difensore la propria responsabilità e ricostruito in maniera dettagliata i momenti precedenti e successivi l'omicidio. Paolo Castellani, il 44enne responsabile del femminicidio della moglie Elisabetta Molaro, 40enne udinese, avvenuto in via delle Acacie 5 a Codroipo, mentre nella stanza vicina le due figlie di 8 e 5 anni dormivano. Il 44enne, al termine dell'interrogatorio, è stato portato al carcere di Belluno in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Intanto le figlie minori sono state affidate alla cura dei nonni. Intorno alle 2:30 i carabinieri della stazione di Codroipo e del radiomobile di Udine, a seguito di una richiesta telefonica, erano intervenuti presso la villa della coppia, rimanendo riverso sul pavimento della camera da letto il cadavere della donna, colpito da decine di fendenti inflitti sul collo e sul torace. Dopo la telefonata di soccorso, l'uomo si era allontanato dal luogo del delitto e immediatamente gli uomini dell'arma avevano avviato le sue ricerche. Lo stesso veniva ritrovato seminudo, bagnato in stato confusionale, ancora sporco di sangue e con lesioni alle mani, a pochi chilometri dalla casa, nella zona di via Molini, nei pressi dell'argine del fiume Stella. Lungo l'argine, con l'ausilio dei vigili del fuoco, è stato ritrovato un coltello da cucina dalla lunghezza di quasi 30 centimetri, verosimilmente utilizzato per commettere il delitto. Sono sconvolti e non riescono a commentare i colleghi e il datore di lavoro di Paolo Castellani, descritto come una persona mite e un grande lavoratore. Secondo alcune indiscrezioni, i due erano in fase di separazione. Elisabetta Molaro, dopo una serata trascorsa con alcune colleghe, era rientrata a casa tardi ad attenderla l'uomo che, dopo un litigio, l'avrebbe colpita ripetutamente a morte. Codroipo, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sentiamo alcune testimonianze raccolte ieri a Codroipo, dove vivevano Elisabetta Molaro e Paolo Castellani e le loro due bambine che sono ora affidate ai nonni. Era appena tornata da una cena con due colleghe, Elisabetta Molaro. Alcune ore di spensieratezza a parlare anche della sua decisione di separarsi, che il marito Paolo Castellani non condivideva. Il datore di lavoro Alberto Bernava, titolare di un'agenzia di assicurazioni e sindaco di San Vito al Tagliamento, ha chiuso per un giorno tutti i suoi uffici in segno di lutto. Elisabetta era sua dipendente da 7 anni. Ci frequentavamo anche tra famiglie, essendo amici, insomma, quindi conoscevamo molto bene le bambine, ci siamo trovati diverse volte a cena come famiglie e mai avremmo pensato che il marito potesse compiere un atto del genere, ma neanche torcere un cappello a Elisabetta. La comunità di Codroipo si è risvegliata incredula. Era una coppia all'apparenza felice. Non avrei mai detto che sarebbe successa questa cosa, perché li ho sempre visti affiatati. Qualche giorno fa li ho visti con le bambine a prendere il gelato in bicicletta, sono passati davanti a casa nostra. Non avrei mai detto, ecco. Io li conosco da tanto, sì, da quando erano ragazzini. Li ho sempre visti sereni e felici. Sempre insieme? Sempre insieme. Il femminicida, ero confesso, lavorava per un'azienda di autoricambi di Udine. Era incensurato, nessuna segnalazione era arrivata allo sportello antiviolenza né ai servizi sociali del comune. Il pensiero del sindaco Fabio Marchetti va ora anche alle figlie di 5-8 anni affidate alla nonna materna. Sono loro la parte debole, quella che rimane, e vanno tutelati e salvaguardati con una rete di protezione sociale che, ripeto, fortunatamente in questo territorio è molto attiva e presente. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Come avete sentito nel servizio di apertura, la sera dell'omicidio la donna aveva cenato insieme ad alcune colleghe di lavoro. Sentiamo il racconto di una di loro. Come stava Elisabetta? Ma Elisabetta stava bene, nel senso che, come dire, una serata fra colleghe di chiacchiere, come si fanno in queste occasioni, che si parla di figli, si parla di mariti, si parla di queste cose, ed era contenta. Abbiamo fatto un aperitivo prima, poi abbiamo mangiato e siamo andati avanti con le chiacchiere, appunto, finché non ci hanno detto: "Boh, adesso noi chiudiamo". Avete parlato anche della sua imminente separazione? Ma sì, lei un po' ci ha detto queste cose, come io ho parlato della mia, lei ha parlato della sua, la collega ha parlato della sua, così, sì, lei intendeva separarsi e io gli ho detto: "Guarda Elisabetta, ci vuole pazienza, perché le separazioni sono difficili e ci vuole tempo, ci vuole molta pazienza e ci vuole tempo". Sì. Come è stato d'animo, come le sembrava? Allora, per me non c'era sentore assolutamente di nulla di simile. Io credo che se lei avesse avuto qualche sentore, forse me lo avrebbe detto. Cosa diceva del marito? Cosa diceva del marito? Diceva che lei voleva separarsi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel grave incidente che ha coinvolto 2 auto articolate e un autocarro ieri pomeriggio sull'A4 è rimasto ferito in modo gravissimo un uomo di 34 anni di Chions, che era alla guida dell'autocarro della ditta Menardi di Sesto Arregena. Il conducente era fermo in coda dietro un auto articolato straniero quando un secondo auto articolato gli è piombato addosso, schiacciando il suo veicolo contro il mezzo pesante che stava davanti. Molto impegnative le operazioni di soccorso per estrarre il 34enne autista incastrato tra le lamiere. L'autostrada nel tratto tra San Stino e Porto Gruaro in direzione Trieste ieri pomeriggio è rimasta chiusa per quasi 3 ore a causa dell'incidente. È morto mentre cercava di fare scorta di acqua Alfio Cella, 72 anni, residente a Tolmezzo, che martedì pomeriggio si è recato alla fonte di Aghe Pradis senza più fare ritorno. Allertata dai familiari, la stazione di Fornia Voltri del soccorso alpino, che ha dato avvio alle ricerche in tarda serata, ritrovando l'auto dell'uomo a Verzegnis, ai piedi del sentiero che conduce alla fonte, dove Cella era solito recarsi. Intorno alle 2 del mattino i soccorritori hanno trovato nei pressi di un salto di roccia le chiavi della sua auto, il suo zaino, e sono quindi scesi in corda doppia ai piedi del salto, dove giaceva l'uomo in apparenza ancora vivo. ma che all'arrivo dei sanitari è risultato essere privo di vita. Il recupero è stato complesso ed è stato necessario calare la barella con il cadavere lungo un percorso impervio e senza sentieri con l'assicurazione di corde. Molta apprensione ieri, poco prima di mezzanotte a Trieste, nel popoloso quartiere di Ponziana, a seguito del ritrovamento di 3 bottiglie riempite fino all'orlo e collegate tra loro da un filo che pareva una miccia, nei pressi della casa di cultura vicino alla fermata dell'autobus. Carabinieri e polizia scientifica sono intervenuti immediatamente a seguito della segnalazione, con loro anche gli artificieri e la Digos. Dopo un'ispezione però si è scoperto che le bottiglie contenevano soltanto materiale inerte che non poteva esplodere o causare danni. L'occupazione è in ripresa. Nel primo trimestre dell'anno in Friuli Venezia Giulia ci sono 17.400 occupati in più, pari al 3,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'economia era ancora condizionata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia. Anche nel confronto con i primi mesi del 2020, quando gli effetti dell'emergenza Covid non avevano ancora avuto un impatto concreto sul mercato del lavoro, si rileva una crescita di 6.500 unità. L'analisi è di Alessandro Russo dell'IRES del Friuli Venezia Giulia. La ripresa ha riguardato soprattutto il lavoro dipendente. Il tasso di occupazione regionale, calcolato nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, nella prima parte di quest'anno si è attestato al 67%, mantenendo un profondo divario di genere, 74% per gli uomini contro il 61% delle donne. Sono meno di 31.000 le persone in cerca di occupazione, in aumento di oltre 1.000 rispetto allo stesso periodo del 2021. Il tasso di disoccupazione si attesta al 5,6% e sono diminuite anche le persone inattive, che sono 10.800. Si tratta quindi di persone che non lavorano e non sono attivamente alla ricerca di un nuovo impiego. La cybersicurezza è un tema cruciale per il funzionamento delle attività del terzo millennio ed è anche al centro dei temi sviluppati nella conferenza internazionale sulle reti a Trieste. Domenica è toccato all'Università di Pisa essere vittima di un attacco informatico. Stessa sorte, qualche ora prima, al comune di Palermo. Ma sono stati gli ultimi casi di una lunga serie di incursioni che evidenziano un problema enorme di sicurezza per le infrastrutture informatiche italiane. La cyber security e come difendersi dagli attacchi è uno dei temi al centro della conferenza internazionale di Trieste dedicata alle reti della ricerca, quasi 1.000 esperti da tutto il mondo a confronto fino a venerdì al Porto Vecchio. Simona Venuti, esperta di sicurezza del GAR. Prima di tutto bisogna fare un'analisi del rischio, perché non si può stare dietro a tutto, bisogna cercare di stabilire delle priorità e delle strategie. Sicuramente si deve fare molto per le nostre macchine, per tenerle in sicurezza, quindi aggiornarle, tenerle sempre aggiornate e protette, ma soprattutto bisogna fare formazione e sensibilizzazione a personale anche non tecnico, in modo che riesca ad utilizzare gli strumenti informatici senza esporre se stesso e la propria struttura a rischi molto gravi. La conferenza è organizzata da GAR e JANT, le organizzazioni italiane ed europee che gestiscono le reti fisiche dedicate alla ricerca, all'istruzione e alla cultura, e di cui fa parte anche l'infrastruttura regionale Lightnet, promossa dall'Università di Trieste, che mette in rete tanti enti in Friuli Venezia Giulia che hanno bisogno di grandi quantità di dati per gli esperimenti, ma anche per la normale attività quotidiana. Il direttore tecnico Giorgio Giorgetti. Abbiamo potuto avere questa fibra ottica che poi gestiamo per collegare l'ospedale Crodi Aviano, per collegare l'Università di Udine, l'Università di Trieste, tutti i centri di ricerca, l'area Science Park, il Centro Nazionale di Fisica Teorica, l'Elettra Sincrotrone, i conservatori di musica, gli osservatori geofisico, astronomico. Abbiamo un insieme di enti connessi attraverso 40 nodi ormai in tutta la regione. Trieste, Ludovico Fontana, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel report agricolo l'ERSA prevede che la guerra in Ucraina possa portare a una difficoltà di approvvigionamento di mais in regione, a erodere però la redditività del settore primario, soprattutto l'aumento dei prezzi dell'energia iniziato ben prima del conflitto. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia fa i conti con la guerra tra Russia e Ucraina. Le ripercussioni imputabili alle minori importazioni hanno un impatto percentualmente residuale, fatto salvo i combustibili minerali provenienti dalla Russia. A livello agricolo, la previsione è che si potrebbe percepire la mancanza di mais dall'Ucraina e di semi di lino dalla Russia. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, dei fertilizzanti e dei mangimi, crescono i costi di produzione delle aziende agricole e quindi c'è un calo di redditività economica del settore agroalimentare, una situazione iniziata però precedentemente allo scoppio del conflitto. L'invasione russa dell'Ucraina ha incrementato ulteriori tensioni sui prezzi di tutte le materie prime, comprese quelle agricole, sia direttamente sia indirettamente, ovvero per la diminuzione del grano esportato verso altri paesi, con conseguente diminuzione di prodotto da acquistare per l'Italia. Il rapporto congiunturale evidenzia crescite, quelle più importanti riguardano il settore vitivinicolo più 29%, la produzione di Montasio DOP oltre 860.000 forme più 10,4% e quella del prosciutto di San Daniele, prodotte e omologate 2,6 milioni di cosce più 3%. Il focus sugli ultimi 10 anni di mais in regione, evidenziato sul sito dell'ERSA, fa vedere la diminuzione di superficie coltivate e di produzione, meno 40%. Il Friuli Venezia Giulia è al 5° posto in Italia e rappresenta l'8% delle superfici nazionali. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pordenone è uno dei primi comuni in Italia in cui si applicherà la direttiva europea sulla concorrenza per quanto riguarda l'uso del suolo pubblico. Gli ambulanti dovranno così concorrere al bando per ottenere le concessioni nell'area del mercato, una misura che preoccupa moltissimo la categoria. I quasi 200 ambulanti del mercato di Pordenone, per giro d'affari tra i più importanti del nord-est, saranno i primi in Italia a misurarsi con la direttiva europea Bolkestein, che prevede la messa a bando di tutti i siti delle bancarelle senza più l'assegnazione del posto per anzianità. Il comune l'ha già recepita un mese fa col sì unanime del consiglio, ma il cambiamento e l'incertezza del momento preoccupano gli ambulanti, molti dei quali da generazioni sulla piazza pordenonese. Io che giro faccio Conegliano, faccio Sacile, faccio Maniago e più o meno siamo sulla stessa barca. Non mi sento neanche di biasimare queste amministrazioni. Come si vive così? Male, cioè non hai certezza. Andrà a scendere e a calare quella che è la professionalità che stavamo costruendo. Le ditte qua sono tutte a carattere familiare e questa direttiva Bolkestein non era il momento. Veniamo da una situazione di Covid già pesante, c'è una guerra in Ucraina che sta facendo decollare i prezzi e le spese di gestione delle nostre aziende. L'assessore al commercio Lo Perfido, sentito anche il parere della regione, rimarca che è un passaggio obbligato dal nuovo mercato, che, finiti i lavori di riqualificazione urbana, si andrà a costituire in autunno e che ritornerà solo in parte nella sua sede storica, in Piazza della Motta e via Roma, allargandosi verso Piazza Risorgimento, una soluzione che non piace a tutti. Noi abbiamo appena fatto un investimento importante qua in piazza con un mezzo nuovo, pensando di incrementare il lavoro, ma se ci spostano sicuramente andremo in peggio. Io preferirei stare così, come adesso. Dal comune massima apertura, il confronto continuo e costante per conciliare le diverse esigenze del centro città, sottolinea ancora Lo Perfido, che assicura tutela alle imprese storiche. Restano divisi intanto sulle novità in arrivo ambulanti, associazioni di categoria e abitué del mercato. Va bene anche così. Come adesso? Sì, sì. Che poi lo facciano qui o in Piazza della Motta, per me è uguale. Per me va bene anche là, non c'è nessun problema. A me non dà fastidio. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella spiaggia di Grado è partita una campagna di sensibilizzazione contro i rischi dell'esposizione al sole senza protezione. Protagonisti, 12 dermatologi. Ultimi giorni di primavera, manca meno di una settimana al solstizio e così al velarium di Grado sono tantissimi a cogliere al volo il check-up gratuito. 12 medici della clinica dermatologica dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, coadiuvati dal personale infermieristico e dai volontari della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, una squadra di specialisti a due passi dalla spiaggia. A qualcuno sembra quasi un miracolo dopo giorni giorni e giorni di tentativi per prenotare una visita. Non riesco ad avere un appuntamento sia a Trieste sia a Gorizia, dunque ho saputo che c'era uno screening qua e per questo sono venuto oggi. Iris Zalaudek, direttrice della clinica dermatologica della SUGI. Non facciamo terrorismo contro il sole, ma quello che dobbiamo forse pensare di prepararsi per le vacanze e quindi gradualmente, pian pianino, quando la pelle si abbronza, si può prolungare l'esposizione e poi chiaramente tutto dipende dal fototipo. Un fototipo chiaro non diventerà mai scuro, quindi il messaggio è: fate attenzione di non bruciarvi. E lo screening dermatologico riporta Grado alla sua storica vocazione per il benessere. Thomas Sawyer, presidente del consorzio Grado Turismo. Noi siamo partiti 130 anni fa come luogo di cura e soggiorno. Grado offre il mare, il sole, la spiaggia, ma anche questa attenzione verso l'ospite con servizi di salute e prevenzione. L'aerosol, sabbiature, inalazioni e oggi anche l'aspetto della dermatologia. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi a Trieste, al Molo IV, si tiene l'evento conclusivo del progetto Cattedra, una collaborazione italo-slovena contro le malattie rare autoimmuni e autoinfiammatorie dei bambini. Il progetto ha coinvolto il Burlo Garofalo di Trieste, la Clinica Universitaria di Lubiana e tre aziende impegnate sul fronte dello sviluppo di test diagnostici di supporto ai pazienti. Principale obiettivo del progetto, lo sviluppo di un database integrato dei pazienti che afferiscono alle due strutture per condividere dati clinici, identificare e classificare meglio le malattie per le quali ci sono pochi casi e dunque anche l'offerta diagnostica e terapeutica è disomogenea. Anche oggi, come accade a Trieste dal 2010, si celebra il Bloomsday in onore di James Joyce. La data scelta è il 16 giugno perché l'Ulisse, l'opera più importante dello scrittore irlandese che visse a Trieste dal 1904 al 1920, ha come protagonista un tale di nome Leopold Bloom e la sua storia si svolge in un solo giorno, il 16 giugno del 1904. Si tratta di un'opera fondamentale per la letteratura mondiale del Novecento e quest'anno compie 100 anni, fu infatti pubblicata nel 1922 e tre capitoli furono scritti proprio a Trieste. Al curatore del Bloomsday, Riccardo Cepac, abbiamo chiesto quali sono le iniziative di oggi. Il Bloomsday, nell'anno del centenario dell'Ulisse, mette in scena tutto quanto il romanzo, quindi dalle 8 di mattina alle 3 di notte, negli orari che sono quelli previsti da Joyce per ciascuno degli episodi del romanzo, noi avremo un evento che in qualche maniera mette in scena appunto l'azione del romanzo, il suo significato, il suo svolgersi, quindi avremo spettacoli di danza, avremo concerti, avremo naturalmente azioni teatrali, avremo mostre d'arte, quindi insomma una pluralità di eventi che in qualche maniera cerca di mimare, di restituire anche la pluralità, la varietà degli stili di questo romanzo così ricco. Qual è l'importanza dell'Ulisse di Joyce nel panorama della letteratura internazionale? Beh, quello dell'Ulisse è un caso molto interessante perché insomma a 100 anni della sua pubblicazione ha tutt'altro che esaurito la sua parabola, è un romanzo studiatissimo, Joyce in qualche maniera l'aveva previsto, è un romanzo che è estremamente ricco e in questa ricchezza c'è naturalmente la complessità e c'è anche la restituzione di qualcosa, no? Il lettore viene chiesto molto ma viene anche dato molto. Possiamo citare alcune delle location in cui si svolgerà questa narrazione? E come si concluderà con il famoso monologo di Molly? Noi iniziamo fra poco al faro della lanterna, quindi nella zona della sacchetta con la colazione che sarà una vera colazione, nel senso che gli attori reciteranno, mimeranno, racconteranno la colazione dei personaggi. Poi avremo tutta una serie di altri appuntamenti, come dicevo appunto concerti, spettacoli di danza, fino ad arrivare all'ultimo appuntamento al Museo Revoltella alle 2 di notte, in cui avremo la messa in scena del monologo di Molly Bloom con il live painting, l'azione artistica di Cosimo Miorelli, la musica di Baby Gelido e la voce di Diana Obel. La scrittrice Dacia Maraini, autrice di Caro Pierpaolo, sarà questa sera a Casarsa, al Teatro Pasolini, per raccontare e ricordare l'amico, il poeta, lo scrittore, il regista Pierpaolo Pasolini. La intervisterà Alberto Garlini, scrittore e curatore di Pordenone Leggio, inizio alle 21. Lo psichiatra Benedetto Saraceno, già membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha scritto un noir psicologico dal titolo Le lingue della paura, che sarà presentato in anteprima nazionale all'ex ospedale psichiatrico di Trieste alle 18. L'incontro, promosso dalla conferenza Basaglia, si terrà in sala Guarino del Parco di San Giovanni. A Benedetto Saraceno abbiamo chiesto del ruolo che la paura gioca in questo thriller psicologico. È un personaggio che giustifica la sua malvagità a partire dalla paura di perdere privilegi, di perdere il potere. E in qualche modo il romanzo vuole raccontare che un po' tutti gli uomini e le donne agiscono a volte in forme malvagie, non evidentemente attraverso l'omicidio come nel caso del mio noir, però la malvagità spesso è il frutto della paura, la paura delle persone di perdere lo status quo. Lo vediamo bene nella paura che tutta la nostra società ha del diverso, del matto, del migrante, di chiunque possa alterare un ordine che in qualche modo è rassicurante. Lei durante la sua carriera ha avuto modo di incontrare e di sondare gli abissi, diciamo, dell'animo umano? Sì, in due modi. Come psichiatra, conoscendo da vicino la sofferenza dei pazienti che si rivolgono allo psichiatra perché stanno male, perché sono angosciati, perché sono depressi, ma anche nelle grandi istituzioni come quelle internazionali in cui si svolge il romanzo. Io sono stato un alto funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per molti anni, in cui le lotte di potere, le gelosie sono spesso dei motori di azioni poco nobili fra le persone. A Campo Formido apre la 44esima edizione di Folkest con un concerto che unisce musica del Friuli con quella sarda, grazie alla presenza sul palco di Andrea Del Favero e Lino Straulino, tra i principali protagonisti della rinascita della musica friulana, e l'organettista sardo Totò Rechessa, tra i maggiori interpreti della tradizione musicale sarda contemporanea. Alle 20.45 nel parco dell'ex scuola elementare di Via De Amicis di Campo Formido. A Malborghetto, nel Palazzo Veneziano, dove è aperta la mostra che espone uno Stradivari del 1692, il concerto del violinista Aleš Laurencic inaugurerà Risonanze Festival. Alle 20 l'incontro con il violoncellista Enrico Bronzi, che sarà poi protagonista insieme al quartetto Venetos del concerto delle 21 con musiche di Mozart e Schubert. Domani Risonanze Festival propone la passeggiata in Val Sizer alla scoperta del passato asburgico. Alle 14 l'itinerario in mountain bike per grandi e piccoli con partenza da Malborghetto. Il concerto di domani alle 17 nel parco in Val Sizera è l'Histoire du Soldat di Stravinsky, nell'allestimento curato dalla Fondazione Gran Teatro La Fenice e solisti d'eccezione. Sabato e domenica Risonanze porta a Malborghetto il trio di Parma, la pianista Leonora Armellini, premiata al concorso Chopin, e l'orchestra Friuli Venezia Giulia. Alle 7.46 cominciamo la rassegna stampa, incominciamo dal Piccolo di Trieste. Il titolo centrale è Taxi, nuove tariffe. La corsa minima passa da 6 a 7 euro. D'accordo il comune, la misura era ormai necessaria. Nella parte alta troviamo invece la notizia del femminicidio di Codroipo, uccide la moglie mentre le figlie dormono. Nel colonnino di cronaca di Piazza a San Giacomo incontra i residenti, progetto per la piazza. Maxi traffico di droga tra Colombia e Trieste, in quattro confessano. Gli addetti alla vigilanza protestano in centro, paghe indecenti. Duino, primo vertice della giunta Gabrovez, squadra a breve. E poi la cultura con Mauro Kovacic, che sul palco racconta Joyce, una delle iniziative del Bloomsday di domani, di cui abbiamo parlato. E ancora, per lo sport, i tifosi dell'Unione scrivono alla FIGC: dateci una proroga. Dal Piccolo di Gorizia vediamo i titoli diversi. Il sindaco Cisint, questa è l'apertura, non voglio Sarkar in maggioranza. Sarkar è un cittadino di origini bengalesi indagato per presunte minacce a dei connazionali affinché votassero centrodestra. Sotto il titolo della grande fotonotizia, Villa San Giusto, Asugi ci porta via infermieri. Nel colonnino di cronaca, arrivato il taser, pistola con scossa per i poliziotti, mortale Abegliano, chiesta l'assoluzione per il fidanzato, tutto esaurito nei B&B del Collio, nuove strutture e test dermatologici per 80 bagnanti a grado. Uccide la moglie a coltellate, il delitto nella notte mentre le figlie della coppia dormivano, l'uomo è stato rintracciato e arrestato nei pressi di Villa Manin. Così l'apertura del Messaggero Veneto, che ha sotto il titolo le due foto di Elisabetta Molaro e di Paolo Castellani. Il giornale aggiunge che Castellani ha chiamato i carabinieri e ora si trova in carcere a Belluno. Sempre in prima pagina del Messaggero, pochi giorni fa la festa per il compleanno di una delle bambine. Sulla tragedia familiare, le indagini, il contesto apparentemente comune a tante famiglie, il Messaggero Veneto approfondisce con 8 pagine. In queste leggiamo anche un elenco delle donne uccise dai propri compagni nella zona del Medio Friuli e tra le vittime anche Lorena di Fossalto di Portogruaro, quel femminicidio avvenuto pochi giorni fa. Il Messaggero di Udine segnala in prima pagina anche le scarse adesione per lo sciopero dei buoni pasto contro le commissioni considerate insostenibili. Ha aderito prevalentemente la grande distribuzione, mentre bar e ristoranti a Udine hanno accettato anche ieri buoni pasto. Il Messaggero Veneto in prima ha anche il richiamo su un altro fatto di cronaca, la morte dell'escursionista a Verzeni scaduto in un dirupo mentre andato a prendere l'acqua, una sorgente. L'edizione pordenonese mette invece in prima il via libera all'allargamento della Cronospan. La regione ha pubblicato ieri il decreto, un richiamo in prima anche ai premi che verranno consegnati domani in comune a Pordenone, premi alla docente No Green Pass e 5 ore dopo al personale anti-Covid. Il PD dice una beffa, chi ha salvato vite? Il sindaco risponde: non sapevo lo fosse e non mi interessa. Siamo al Gazzettino, cominciamo dalla prima pagina dell'inserto dedicato al Friuli, che apre con la notizia del femminicidio: uccisa perché voleva separarsi. Elisabetta Molaro è stata assassinata con decine di coltellate dal marito Paolo Castellani nella loro villetta di Codroipo. In una camera dormivano le due figlie della coppia. L'uomo è stato catturato mentre vagava nei campi. Anche la fotonotizia è dedicata all'omicidio. Si vede la villetta dove vivevano dove viveva la coppia. Il titolo, la frase: dopo la lite, se mi lasci mi uccido. E poi accanto le due bambine ignare di tutto sono con la nonna. Altro argomento, le elezioni, simboli di partito nascosti in regione, vincono le civiche. Sono solo 4 i partiti che hanno avuto il coraggio di mostrarsi, scrive il Gazzettino, ma solo in pochi comuni, PD, Lega, Fratelli d'Italia e 5 Stelle, solo a Gorizia e Monfalcone. Sotto, occupazione, superati i livelli di prima della pandemia, il rapporto dell'IRES di cui abbiamo parlato prima, poi ancora la cronaca, per fare scorta d'acqua cade in un dirupo e muore, l'incidente di Verzegni, se ancora Tolmezzo, ne abbiamo parlato ieri, alla festa spunta il saluto fascista, un gruppo di sostenitori del neoeletto sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, ha celebrato la vittoria così del proprio candidato, e su questo poi ci sono state, come abbiamo detto ieri, delle prese di posizione. Il Gazzettino di Pordenone, i titoli di prima, della prima pagina dell'inserto sono più o meno gli stessi, vediamo quelli che divergono. Per la cronaca, schiacciato nel camion nel tratto maledetto della A4, dell'incidente in autostrada abbiamo parlato prima. prima all'inizio del giornale radio e poi addio code in comune per fare un certificato. Si fa riferimento a un'iniziativa del Comune di Pordenone con i fondi del PNRR, cioè trasferire i servizi per il cittadino online. Gli incontri con l'autore Il Vino al Palapineta nel Parco del Mare a Lignano questa sera alle 18 presentano il viaggio di Gianni Pasin che fa rotta su Venezia in barca e in bici lungo la litoranea veneta. L'autore racconta il lento viaggiare tra la laguna, i fiumi e le vie d'acqua che dal delta del Po arrivano al Golfo di Trieste attraversando anche Chioggia, Venezia e Trieste. Molte le presentazioni di libri previste oggi in regione, ne citiamo alcune. Incominciamo con Le Indemoniate di Verzegnis di Pietro Spirito, che si ispira a fatti realmente accaduti nel 1878. Sarà presentato nella sua ristampa alla libreria Lovat di Trieste alle 18. Il romanzo di Veronica Simoniti, Ivana, davanti al mare, premiato in Slovenia anche dai lettori, ora tradotto in italiano e sarà presentato a Trieste dalla libreria Minerva alle 17. L'incontro con l'autrice al ristorante Ai Fiori. Prata d'autore d'estate ospita Lorenza Stroppa che presenterà il suo ultimo romanzo, Cosa mi dice il mare, a Prata, in Piazza dell'Indipendenza alle 18. Al Museo della Civiltà Istriana e Dalmata, presentazione del volume di Pericle Camuffo, Gino Brazzo Duro, l'incontro è alle 18. Presentazione del libro dell'alpinista sloveno Nez Zaplotnik, La via a Muggia, nel giardino della Biblioteca Comunale Guglia alle 18.30. La prima presentazione italiana del libro a cura dell'associazione Kilian Ferluga e del CAI di Muggia. La crisi in Ucraina e il futuro dell'Unione Europea saranno analizzati a Gorizia al Kulturni Dom dal docente di relazioni internazionali dell'Università di Maribor Silvio Devetag, dal ricercatore dell'Università della Sapienza di Roma Ezio Benedetti e dal giornalista Mattias Natigal. L'incontro avrà inizio alle 18, garantito il servizio di interpretariato simultaneo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11, il nostro flash, poi la rubrica in friulano Vue o Fevelin D che parlerà di vigneti aperti, evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino, durante il quale fare incontri e godere di momenti conviviali nei vigneti alle 11.19, anziani, anzi no, farà un bilancio di quest'anno accademico dell'Università della Terza Età di Udine e parlerà del progetto dedicato all'invecchiamento attivo del comune di Turiaco. Le 11.55 andrà in onda Né Stato né Mercato. Si conclude qui questa edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Nada Cioc in regia. Per la parte tecnica Carlo Morello, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.